se mi potessi vedere ogni volta che penso a te, se tu mi potessi sentire ogni volta che chiamo te, tu mi berresti nel bicchiere che bevi, mi leggeresti dentro il libro che leggi, me solo me potresti amare, me solo me potresti vedere in tutto il mondo, tu mi vedresti in ogni sguardo che vedi, mi baceresti in ogni donna che baci, vedresti me, solo me, in tutto il mondo. Tutto il mondo.